piangi con me è che ora non c'è più nessun angelo di vetro fra me e te. E tu piangi con me è che ora non ho più nessun altro motivo per andare via da te. Forse la mia vita è come un angelo di vetro che si frantumerà. O forse la mia vita è come un diavolo di sabbia che si disperderà. Di sabbia che si disperderà. Piangi con me che ora non c'è più nessun angelo di vetro fra me e te, fra me e te, fra me e te. O forse la mia vita è come un angelo di vetro che si frantumerà. Forse la mia vita è come un diavolo di sabbia che si disperderà. Di sabbia che si disperderà. Forse la mia vita è come un diavolo di sabbia che si disperderà. Di sabbia che si disperderà. Di sabbia che si disperderà.